L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, una puntata in cui parleremo di... L'avete riconosciuto senz'altro, è un rumore che vi avrà svegliato o fatto sobbalzare almeno una volta nella vita, perché è quello del vetro che precipita dentro i camion della raccolta. L'Italia, del resto, è il paese europeo che ricicla più vetro e se guardiamo al particolare, una menzione d'onore se la guadagna Milano, che con oltre 41 kg di vetro per abitante all'anno consegnati al Consorzio Recupero Vetro, e cioè il Coreve, stacca del 71% la media nazionale. Ed è una raccolta non solo di quantità ma anche di qualità, perché grazie agli investimenti tecnologici e impiantistici fatti dal Comune e dall'AMSA, che è l'azienda che gestisce i servizi ambientali e quindi la raccolta dei rifiuti, ora si riesce a correggere gran parte degli errori che i cittadini fanno nella raccolta, perché in tanti sbagliamo anche in buona fede. È per questo che anche a Milano il Coreve ha portato la sua campagna C'è vetro e vetro. Per tutto il mese di maggio ai quattro angoli della città è arrivato il CAM, ovvero Centro Ambiente Mobile di AMSA, con tutte le informazioni per un corretto riciclo del vetro. Che cos'è questo CAM? È un container in pratica che viene trasportato di luogo in luogo da un camion. È un container che una volta aperto diventa un punto di informazione di raccolta differenziata, perché lì ad esempio si possono consegnare piccoli elettrodomestici vecchi, ad esempio anche lampadine o tutto quello che normalmente, insomma, quando si va davanti al bidone della spazzatura non si sa dove mettere. Ed è proprio in uno di questi quattro angoli di Milano, per parlare di C'è vetro e vetro, che rincontriamo, dopo esserci conosciuti qualche anno fa, Dante Benecchi, direttore generale del Coreve. Oggi non è più solo importante raccogliere tanto, ma è raccogliere bene, e lo scopo di questa campagna è dare quelle informazioni di base in modo che il cittadino, che è lo starter del sistema, è il vero punto di partenza della raccolta, possa, tenendo conto delle nostre informazioni, capire quello che può conferire e quello che invece è preferibile che vada in altri sacchetti o in altri contenitori diversi dal vetro. Al tavolino del bar di Piazza Bonomelli, al quale ci siamo accomodati, c'è anche Riccardo Caminada, responsabile AMSA della valorizzazione della raccolta. E coinvolgiamo quindi anche lui nel discorso con Benecchi. Un'avvertenza: a un certo punto parleremo di raccolta multimateriale e la raccolta di materiali diversi nella stessa campana. Di solito sono vetro, lattine e plastica. Da quanto tempo è che questo CAM è in giro per la strada di Milano? CAM è in giro per la strada di Milano da gennaio di quest'anno, siamo al sesto mese. In questo mese di maggio la sperimentazione è in corso con il Coreve, una campagna col consorzio di recupero del vetro focalizzata proprio su questo materiale. Il mese prossimo sarà invece il mese della plastica e quindi porteremo con Corepla materiale ed esperti della raccolta della plastica. Quindi che tipo di insegnamenti sono stati portati? Noi abbiamo pensato proprio di coinvolgere tutti gli operatori, facendogli vedere i nostri impianti, facendo vedere i risultati della selezione, quello che si riesce a fare, ma anche quello che non si riesce a fare, perché la tecnologia ha un limite, quindi l'importanza della raccolta differenziata. Cos'è che non si riesce a fare, ad esempio? No, si riesce a fare, ma si scarta anche molto vetro e quindi è un peccato. L'anno scorso, ad esempio, un camion su due non poteva diventare nuove bottiglie. Adesso abbiamo migliorato con nuovi interventi tecnologici, però rimane comunque una fetta ancora importante di vetro che, pur essendo conferito, non riesce a diventare nuove bottiglie perché si perde negli scarti. Oggi siamo attorno al 10%. Quindi in tutti questi mesi vi siete accompagnati, diciamo, ad esperti di raccolte differenziate di vari materiali. Milano, per quanto riguarda il vetro, è tra le città che in Italia ne raccolgono di più. Perché avete sentito, nonostante questo, l'esigenza di una campagna specifica con il Coreve? È fondamentale che nel cassonetto si butti solamente vetro, flaconi, bottiglie, vasi, e non si mettano invece quei prodotti che poi impediscono il recupero del materiale. Ci sono i cosiddetti nemici del vetro, parliamo della ceramica, la porcellana, la vetroceramica, quindi il pyrex, le lampadine, materiali che nella fusione, nella rifusione del vetro, nelle fabbriche che recuperano, costituiscono impurezze gravi per la formazione delle nuove bottiglie. La catena, diciamo, del vetro a Milano, approfitto della sua presenza perché prima me ne accennava, una volta raccolto, come abbiamo visto oggi, dove viene portato e che cosa accade in questi primi impianti che sono vicini alla città, diciamo? Negli impianti più vicini alla città, dalla raccolta e dai cassonetti, il vetro viene portato ad Amsa, per esempio, ne ha uno, a impianti che fanno una raffinazione, magari una prima raffinazione. Si tolgono i materiali strani come la carta, la plastica, i metalli e una parte grossolana di ceramica e porcellane. Quindi questo prodotto viene avviato ad impianti di seconda raffinazione che producono, togliendo in maniera piuttosto spinta i materiali estranei, producono il cosiddetto pronto al forno, un materiale che può essere mandato in vetreria per essere fuso insieme a... Quindi comunque AMSA si occupa della prima parte, diciamo, il resto poi dopo passa in altre mani. AMSA si occupa della prima fase e poi consegna a Coreve il vetro per la seconda fase. E nella campagna di questi mesi, dove avete visto che i cittadini avevano più bisogno di supporto? Non penso solo al vetro, ma anche alle altre iniziative che avete avuto con gli altri. Gli interessi sulle raccolte differenziate sono stati un po' su tutte le frazioni. Ce ne sono di più facili, carta e vetro sono più facili, e quelle più difficili come la plastica, dove bisogna differenziare anche tipologie di plastica, polimeri, ma anche manufatti di tipo diverso che non possono essere messi nel sacco della plastica. Non tutte le città o non tutti i comuni hanno uguali criteri di della raccolta differenziata. Ciò dipende dagli impianti a cui si conferiscono i materiali per la raffinazione, la separazione e il recupero dei materiali. A Milano si raccoglie il vetro da solo, in altri comuni il vetro viene raccolto insieme ai metalli, le lattine di alluminio, di ferro. Ricordo che quando ci conoscemmo il tema della raccolta multimateriale per voi era un tema sensibile, adesso appunto questi nuovi impianti che ci sono riescono un po' a risolvere la situazione? No, oggi non esiste una tecnologia che è in grado di separare il vetro da un rifiuto indifferenziato, è fondamentale il lavoro del cittadino, la separazione a monte, possiamo correggere queste cose. Riguardo alla raccolta multimateriale diciamo che abbiamo avuto ragione, perché molte regioni dove questa aveva preso piede stanno ripensandola, e anzi una importante come la Toscana ha sottoscritto un accordo con noi, con il CONAI, per convertirla, qui per ritornare alla raccolta monomateriale. La stessa normativa recentemente pubblicata parla di raccolta monomateriale. Esiste ancora, come esisteva, ricordo, una pesante differenziazione nelle quantità raccolte tra nord, centro e sud Italia? Sì, sostanzialmente noi abbiamo, diciamo, un'Italia divisa in tre, no? Il nord che raggiunge dei livelli di assoluta eccellenza, un centro che è in difficoltà anche per la presenza della raccolta multimateriale che non solo peggiorando la qualità fa sì che solo una parte possa diventare nuove bottiglie, ma proprio non è un incentivo alla raccolta differenziata, non viene capita dal cittadino. Poi nel mezzogiorno abbiamo delle diverse esperienze estremamente interessanti, però diciamo ancora da generalizzare. Però con delle regioni, mi interessa dirlo, come la Campania, che negli ultimi 4 anni ha fatto ha tanto vituperata Campania, poi alla fine... Oggi è a ridosso della media nazionale, diciamo che sicuramente per quanto riguarda noi ha dei risultati migliori rispetto al centro Italia. Gli impianti poi di lavorazione però restano comunque nella parte nel nord Italia, no? Quindi poi c'è un problema anche forse di trasferimento, di materiali, così. Sì, beh, diciamo che sono legati agli stabilimenti che poi lo utilizzano, che storicamente erano più concentrati al nord, anche se ci sono delle realtà importanti nel mezzogiorno. Però diciamo completata l'evoluzione degli impianti del nord, adesso sta procedendo quella degli impianti del sud e ci sono delle nuove esperienze che nasceranno a breve. C'è qualcuno in Italia che sta cominciando la separazione tra vetro bianco e vetro invece scuro, colorato? Sì, noi abbiamo fatto un'esperienza in un'importante città assieme alla municipalizzata del comune, il comune di Verona, e stiamo testando di diverse realtà. Aspettiamo che si concluda questa esperienza per trarre poi delle conclusioni. Abbiamo visto tutti questi camion oggi che passavano, l'AMSA non mescola. la raccolta differenziata dei cittadini? Fate la raccolta differenziata e i materiali vengono recuperati e il vostro lavoro va a buon fine. Siccome non sempre è così, ma qualche volta capita che le ciambelle riescano col buco, mentre io incontravo Dante Benecchi del Coreve e Riccardo Caminada dell'AMSA, un collega, Simone Spezia, intervistava Antonio Lui, un altro che di vetro se ne intende molto, poiché è il presidente della sezione Vetro Cavo di Asso Vetro. Per vetro cavo si intende quello con cui si fanno gli oggetti di uso quotidiano. Confermando la crescita della raccolta differenziata nel sud Italia, di cui ci parlava Benecchi prima, Antonio Lui parla con Simone Spezia della joint venture che tre grandi aziende del settore hanno costituito per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento del rottame di vetro che sorgerà nei pressi di Frosinone. È una joint venture fra Ardag, il gruppo Ardag, il gruppo Zignago e il gruppo Saint-Gobain. La raccolta differenziata nel sud sta incrementando i risultati, ancora lenta a nostro parere, ma sicuramente ci sono prospettive per il futuro. Noi ci siamo preoccupati di vedere e di controllare quante infrastrutture ci fossero in grado di assorbire e garantire la lavorazione di questo rottame. Secondo noi oggi al sud c'è una lacuna da questo punto di vista e quindi come industria ci siamo detti, anche se il nostro mestiere è fare bottiglie, però insomma credo che l'iniziativa sia un'iniziativa che vada nella giusta direzione anche per quanto riguarda i risultati delle vetrerie, cioè quella di consorziarsi e fare una società che ha una capacità di lavorazione di oltre 200.000 tonnellate, utilizzando tra l'altro la nuova tecnologia che ci permette anche di fare una selezione per colore del rottame. Dove è collocato questo impianto e chi servirà? Sotto Roma, noi credo che ormai la decisione sia in provincia di Frosinone, chiaramente saranno gli stabilimenti collocati nel centro Italia, queste tre società, ma avrà una capacità superiore alla nostra, quindi ci sarà anche per il mercato e per tutti quelli, tenendo conto, io lo ricordo ancora una volta, che l'Italia è una nazione che importa rottame di vetro dall'estero. Tutto questo anche nell'interesse dell'industria, perché c'è un interesse economico dell'industria del vetro ad avere maggiori quantità di riciclato. Ci mancherebbe, è evidente che anche noi, basta pensare che usando il rottame la temperatura di fusione è una temperatura più bassa delle materie prime, quindi vuol dire meno energia, vuol dire meno CO2, quindi anche da un punto di vista industria è evidente che c'è un vantaggio. Io sono sempre dell'opinione che quando le industrie sono competitive la società è competitiva. Dopo tutto questo parlare di riciclo, vi presentiamo l'ultimo nostro ospite per parlare anche di premi per coloro che riciclano. Antonio Galdo è direttore del sito Non Sprecare e l'autore di Basta Poco, che è stato recentemente pubblicato da Einaudi. Benvenuto Aldo. Buongiorno. Parliamo di questo premio, che cosa bisogna fare per meritarselo e guadagnarselo? Beh, noi innanzitutto premiamo personaggi, il premio è diviso in quattro categorie: personaggi, istituzioni, associazioni, imprese e scuole. Premiamo tutti coloro i quali praticano delle buone iniziative antispreco. È la seconda edizione, per partecipare è semplicissimo, basta andare sul sito nosprecare.it dove c'è il bando, il regolamento e anche la mail e l'indirizzo di posta al quale inviare la proposta. Quindi, e la candidatura. La segnalazione... Ne abbiamo già ricevute qualche centinaia, vorrei dire, perché siamo partiti in questi giorni, il che conferma la mia idea che c'è molto, molto interesse su queste tematiche. Antonio, mentre stavamo parlando, io ho aperto il sito nonsprecare.it e c'è ovviamente il bando di cui ci parlavi, ma sulla home page oggi l'apertura è Esplode la voglia di bici. Gli italiani stanno molto avanti, molto più avanti delle loro amministrazioni, ahimè. Nel senso che pensa, abbiamo già 5 milioni di italiani che utilizzano abitualmente la bicicletta per andare a lavorare, quindi non per fare la passeggiata o per fare un po' di sport, quindi hanno sostituito l'automobile con la bicicletta. Purtroppo devo dire che queste statistiche funzionano nel centro-nord, ma non funzionano nel sud Italia, dove appena l'1% degli abitanti utilizza la bicicletta. Eppure, secondo me, primo, le amministrazioni locali nel sud sono molto poco generose nelle politiche che incentivano l'uso della bici, e secondo, forse nel sud, l'auto, specie di grossa cilindrata, ahimè, è ancora uno status symbol. Eh sì, e invece bisogna invertire. Antonio, ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro, continuiamo a seguirti attraverso il sito nonsprecare.it. Buona giornata a tutti. L'altro pianeta. Di nuovo in onda con l'altro pianeta ed è il momento dell'intervista di Cristina Carpinelli, questa settimana a un notissimo campione dello sport. Cristian Ghedina, innanzitutto buon pomeriggio e allora subito iniziamo questa intervista. Il tema centrale sarà ovviamente la montagna e la prima domanda è: che cos'è per lei la montagna? Beh, la montagna è per me, cioè, non so, forse perché ci sono nato, vivo qua, forse magari alla differenza di un altro che possa essere nato al mare direbbe la stessa cosa del mare, però io sono nato qui in montagna, ho avuto anche la fortuna di essere a Cortina, che è una conca fantastica, un paesaggio bellissimo, uno dei più belli, non perché sono di qua, uno dei più belli che io mi abbia visto, proprio la conformazione della conca è bellissima, ma per me poter ritornare a casa o comunque vivere in montagna, respirare aria sana, aria fresca, aria pulita o aria di casa, andare a fare una passeggiata con i cani e stare all'aria aperta. Senta, la montagna è anche il posto, soprattutto il caso di Cortina, è anche il posto dove si misura un po' un certo tipo di turismo rispetto a un altro, perché la montagna è per alcuni sforzo, sacrificio, rispetto e per altri invece è, nel caso di Cortina nello specifico, una vetrina e poi magari qualche escursione con la Jeep. Lei cosa ne pensa? Sì, no, in effetti è vero, tanta gente, chiaramente Cortina è un villaggio, è un paese turistico, in alta stagione c'è tanta gente che viene per, forse anche loro, per respirare un po' di aria sana, farsi delle passeggiate, però forse per me è il periodo che mi piace meno Cortina. A me piace quando non c'è nessuno, quando la vivi la natura. Lei ha questa concezione del vivere la natura cercando di impattare il meno possibile sulla natura? Sì, questo sì. Beh, sono molto rispettoso della natura, mi piace proprio la natura, mi piace far fatica, mi piace anche pormi degli obiettivi per arrivare fino a un certo punto, poi la rispetto, mi piace anche vivere dalla natura, nel senso, cosa c'è di più bello che poter bagnarsi la testa o rinfrescarsi o comunque bere dell'acqua di sorgente che viene fuori da delle sorgenti che trovi nel bosco o cose così. Poi mi piace anche, ho sempre avuto la passione fin da quando ero piccolo, mi ricordo, mi piacciono tutti i frutti che nascono. A me piaceva un sacco andare a raccogliere i mirtilli quando ero più giovane, tanto è vero che adesso proprio ieri ho piantato due piante di albicocche qui davanti a casa, perché voglio raccogliermi le mie albicocche, le albicocche di casa. Però adesso in effetti magari mi ci metto dentro anche io, cioè è facile dire, sentenziare, no? Però le comodità, la macchina, l'automezzo, mezzi di inquinamento, alla fine fanno piacere, fanno comodo, perché ormai ci si sposta, si vuole sempre di più tutte le comodità e comunque avere le comodità comporta a rovinare la natura, a deturparla anche magari, perché poi vengono costruite strade. Rispetto a quando ero piccolo ci sono tanti più mezzi che circolano sulle strade, questo è indice che è aumentato molto di più lo smog nell'atmosfera. Bisogna fare le cose chiaramente con criterio, con sistema. Bisogna pensare anche un domani, che cosa se si va avanti di questo passo, che cosa succederà. Ecco, per quanto riguarda il domani, cioè, secondo lei la montagna come sta passando ai ragazzi? Cioè, i ragazzi si stanno formando su un'idea di montagna che, come diceva lei nel corso dell'intervista, è anche rispetto, sacrificio, parsimonia, difficoltà anche, preparazione, serietà nel confrontarsi con la montagna? Ma secondo me questo va sempre di più ad affievolirsi questa integrazione con la montagna, questo affiatamento con la montagna o da parte dei giovani, o comunque il rispetto anche per la montagna, ma per tutta la per tutto quello che è la terra, penso, non solo la montagna. Grazie a Cristina Carpinelli per l'intervista con Cristian Ghedina. Adesso è il momento di cedere il microfono a Marco Carminati per l'altra nostra rubrica della settimana, articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno a tutti da Marco Carminati, oggi siamo in collegamento con Costanza Pratesi, che è la responsabile ufficio ambiente del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Buongiorno dottoressa Pratesi. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, con lei abbiamo fatto anche nelle precedenti puntate dei bellissimi giri per l'Italia, alla scoperta di luoghi davvero sconosciuti, insoliti, inattesi, ma che, ahimè, soffrono di qualche pericolo che incombe su di essi. Anche oggi lei ci accompagnerà in un luogo veramente poco noto. Per esempio, ci porta a Bergamo. Ora, Bergamo è una città notissima, una città bellissima, antica, prospiciente la pianura, circondata dalle mura venete, ricchissima di monumenti sia nella città bassa che nella città alta, però con una incredibile sorpresa. E qual è questa sorpresa, dottoressa Pratesi? Questa sorpresa viene dall'Orto Botanico di Bergamo, che è una realtà di eccellenza nel suo campo, di cui direi può andare fiero tutto il paese, e che qualche anno fa ci ha segnalato questa rarità presente vicino a Bergamo, Ponte San Pietro, ovvero un piccolo isolotto che passa tra circoscritto praticamente da due corsi d'acqua, il Brembo, il fiume Brembo e il torrente Quisa. In questo piccolo isolotto c'è una presenza di orchidee selvatiche spontanee, di rara bellezza e rarità a questa quota così bassa, e tanto da farne un piccolo scrigno per la biodiversità e per la sua bellezza paesaggistica. E questo piccolo scrigno è, come sempre accade, spesso accade purtroppo, minacciato da qualche progetto di cementificazione. Ecco, incredibile, nel cuore, diciamo così, della Lombardia industrializzata, perché quella è una zona altamente industrializzata, scorrono due fiumi, in questi due fiumiciattoli si è creata un'isola con le orchidee spontanee. Davvero voi del FAI ci stupite sempre per queste incredibili segnalazioni. Ma che cosa, qual è il pericolo che incombe su questo isolotto? È stata purtroppo fatta qualche anno fa una domanda al comune di costruzioni di una piccola lottizzazione, e purtroppo, come accade anche questo di nuovo, ahimè, troppo spesso il comune, che vi ravvedono sempre una possibilità per dare un po' di ossigeno alle casse sempre più povere dei nostri comuni, in fondo accettava questa lottizzazione. C'è stato però un forte movimento dei cittadini. È una bellissima forma di partecipazione dei cittadini di Ponte San Pietro e delle aree circostanti, che non si sono limitati a una protesta, ma hanno veramente fatto con l'Orto Botanico e con tutte le associazioni un grande lavoro di riscoperta di questo piccolo territorio, un lavoro di analisi scientifica, un lavoro di analisi delle valenze paesaggistiche, lo studio di percorsi, aperto visite guidate organizzate da loro, quindi davvero una piccola forte riscoperta di questo angolo meraviglioso in un'area, come lei diceva, fortemente antropizzata. Ecco, quindi è incredibile, ma la popolazione ha difeso le sue orchidee, sì. Nonostante sia appunto una popolazione molto industriosa che ha comunque trasformato il paesaggio a vantaggio anche del benessere generale, perché noi sappiamo bene che quell'angolo della Lombardia è uno dei luoghi dove si lavora di più, si lavora molto e naturalmente si vive anche con un certo tenore di vita. Però le orchidee sono in qualche modo salve. Se lo affidassero a voi questo angolo di paradiso, che cosa ne farebbe il FAI? Qui adesso direi, a parte le aree di proprietà, insomma, privata, che dovrebbero essere donate al FAI, non è detto, ma basterebbe occuparsi delle aree demaniali, che quindi, come dire, vanno intorno a tutto l'isolotto, no? Dove ci sono i corsi d'acqua, come stanno facendo anche i cittadini, occuparsi di queste aree demaniali per farne percorsi pedonali ovviamente, e percorsi di visita per i cittadini. Si possono fare e stanno facendo proprio con la collaborazione dell'Orto Botanico stupendi incontri anche con le scolaresche, didattici, su proprio per la rarità che viene da questa, da un po' dalla storia geologica di questo piccolo luogo che ne ha fatto una meraviglia dal punto di vista della botanica soprattutto. E quindi si può fare, si può dare, ridare questo luogo ai cittadini di Ponte San Pietro come luogo di scoperta naturalistica, come luogo anche di ristoro e di paesaggio, ma lasciandolo nella sua bellezza qual è. Bene, allora questo è un appello: chiunque venga a Bergamo come turista o anche come semplice cittadino, salga a vedere la città, salga a vedere i monumenti, ma non si dimentichi di andare a vedere l'Isola delle Orchidee a Ponte San Pietro. Certo. Grazie dottoressa, grazie Pratesi, e alla prossima. Grazie, e grazie, arrivederci. E grazie a tutti gli ascoltatori. Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Altro Pianeta. Per riascoltarci, vi ricordo, c'è il sito internet di Radio 24, nella sezione dedicata ai programmi selezionate L'Altro Pianeta. Per scrivermi, laura.bettini@radio24.it, oppure c'è anche l'indirizzo email della trasmissione, l'altropianeta@radio24.it. Buon proseguimento d'ascolto.